tutto qui, no? Perché noi siamo, allora, noi siamo divisi a gruppi. Allora io sono io e altre tre persone, in quattro non abbiamo una bigliettina. Capito? Siamo in quattro, cioè ci siamo noi. Noi ci paghiamo solo la luce e il blu, capito? Poi l'affitto niente. Questo qua ci fa pagare la luce, perché prima qua succedeva che chi stava lì, no? Scusava via, io stavo una baulura luce, no? Magari andavano a lavoro e lasciavano le luci tutte accese, ma preso. Allora quello si è rotto il guglione e ha detto, non è per la luce, perché tu stai facendo così perché non affari, allora te la vuoi pagare la luce, e vedi se le spegni le luci. Allucinante, ma se avevi venduto tutto poi, camion, tutto. Allora, uno l'abbiamo demolito, perché non è fatto, un altro invece l'ho venduto a uno di Alghero, che ne aveva tre uguali, e quindi questo vediamo, se lo metto, faccio viaggiare, se no me lo utilizzo come tutti i ricambi. Per caso con le macchine arriva che poi non li trovi qui. Però questo qua mi sembra che ne ha 4 o 5 di queste macchine, e quindi ho fatto così. Capito, Antonio, non ve la vivi tanto. Poi sì, se tu andavi a fare i viaggi e magari non riuscivi a fare il carico, perché magari chiamavi, Antonio, no, guarda, qua c'è magari la busta che mi ha fatto di meno, cioè, tutte queste storie. Capito, ogni volta avevi l'incubo per riuscire a fare un carico buono. Ma alla fine, quando mio padre era di 10 anni di pensione, quando mi ha detto, questo mi ha detto, ma come vai a fare il busto, vai, capito? E quindi io poi ho fatto un mannettino qua, lavorecchiando sempre per questa gente, però qua in Sardegna. E poi siccome conoscevo altre persone, che erano già lì, ha trovato che mi fa la festa benissimo. Antù, ci sono tante persone di Sassari, che ti manco di immagini, pieno, tanti, sempre a Sassari. Lo so. Hai fatto bene. Hai fatto bene, non c'era più il tempo, hai fatto bene, ha venditi tutto, vai via. Ma sai cos'è, tu dovevi magari cambiarti il camion per lavorare con le gabbie, metterti dei debiti, quando poi non c'è una certezza dietro le spalle, tipo un'azienda che ti assiste, perché come ti stai mettendo una corda al collo, ti metti a cambiare, poi magari perdono i clienti perché magari quelli che erano da altre parti, non c'è più il quantitativo, ti rabbi il culo, le cambiali non è che si bloccano. Ma era troppo giramento di palle, era. Anche, no, ma perché poi facevano anche altri giochi, per esempio quella zona tua magari non ce la facevi tu, la passavano subito a un altro, già lo sai come ti funziona, e quello là con mille pretese, quello là con qua sa se sono successe anche queste cose, magari quello c'è, cioè, invece di Valunghir che cazzo lo faceva a Gorizia, perché magari non si potevano vedere o avevano problemi, sono successe tutte queste cose un periodo a me. Ho visto una macchina di quella bianca che faceva i paesi in sorte segno, mi sembra, e poi ho visto un'altra macchina gialla che una volta stava andando a imbarcare e l'ho vista, cazzo cosa hai chiamato, cosa gli hai dato per lavorare uno fa dall'altro, sicuramente si è detto così. Sì, ma poi c'erano dei sapori anche, c'erano adesso pian pianino ci stanno mettendo un pochettino le cose a posto, c'è stato un periodo che c'erano dei dissapori brutti, non volevano più a cosa, ad Angelo, volevano a cosa, a Silvio, cioè andare a portarsi le punte, era un casino vero, perché Crisemi, capito? No, vero, alle mani. No, alle mani no, è che sono trapaganti, adesso la vai tranquillo, meno male non sta succedendo. Trapaganze, soprattutto Angelo ha scantonato un periodo e poi adesso le cose si sono messe a posto. Ecco, ma quello lì che hai detto prima, l'altro quello con la G, ha avuto sempre che erano per il coglione agli altri, a me me l'ha fatto una volta a Udia e gli ho detto la prossima volta io non capisco più, ma era il periodo prima di mollare tutto, perché io ho già capito che non era cosa tranquilla, quindi a me non ha rischiato lo fate qua. E la fuggi, che andare a stare bene. Capito? Non c'ho famiglia, non c'ho il coglione, ma che cazzo me ne frega? E ti posso dire anche che siamo felici, giusto, tranquillo, ci facciamo le nostre ore. E poi il bello che fai di tutto, fai tantissime cose, fai tutto, facciamo tipo dalla muratura, facciamo il diritto di tutto, facciamo, abbiamo fatto anche le vendemmie, andiamo a vendemmiare. Poi l'anno scorso ero nel, prima di essere toccato il Covid, ero nel villaggio che hanno, no? Hanno un villaggio di prima di Aiaccio, un villaggio bellissimo, e io, noi stavamo, lavoravamo, ci mandava via a lavorare, e c'era questo responsabile, no? Ma perché ci partiva, però vabbè, io avevo già una persona che ha detto, io già stavo lì, e questa è una persona che mi sa. Io voglio venire qua in villaggio, cazzo di lusso, e il villaggio faceva anche 13 ore, faceva 130, 140 euro al giorno, perché noi ci davano 12 euro a ora netti. È buono così. Ma stai innescando, sa? Sì, appena appena. Prova a vedere. No, metti la portante. Sì, appena appena, leggero, leggero, leggero. Non so. Perché il CP non è mai andato al logo. Capito. Allora, sai quindi cosa facciamo? Quando io scendo, no? Perché se noi siamo un gruppo, io sono io. Noi confettate, poi c'è un napoletano che è responsabile delle... In provincia ha quattro gruppi, siamo gruppi di quattro, no? Lui ne ha quattro. E abbiamo la casa tutti vicino, è un piccolo quartiere, no? Tutti vicino, tutto di questo qua. Quindi io il nostro responsabile è questo napoletano che prendiamo, guarda, prendiamo veramente. Allora cosa facciamo? Io cerco di portatore, ci scendiamo in coppia, siamo la coppia. Poi napoletano trovo che rimane lì, perché lui non, per anni non ci va mai a Napoli, mai va, ci va una volta all'anno. E poi c'è quest'altro di l'aliento, potrebbe essere l'aliento. E qui ci alterniamo, capito? Io però scendo sempre con questo portatore. Una volta scendo con la macchina mia e una volta andiamo con la macchina di questo portatore. Quando saliamo, prima di salire, e noi poi da su ci fanno tutte le prenotazioni, no? C'è un ufficio di questa azienda, poi ci fanno la prenotazione, capito? E noi il giorno prima andiamo all'Eurospin e facciamo una grossa spesa, capito? Tipo scatolame, pomodori, imperati, questa roba così, no? E poi ci portiamo un po' di come si chiamano, di spianata, no? Abbiamo il congelatore, e poi lì compriamo magari pane fresco, non finiamo, capito? Perché la roba è cara, quindi se vuoi risparmiare facciamo così, capito? Ma tu, lui costa, poi ti pagano bene, però cazzo la roba la mangiare, costa bene, eh? Lo so, li ho visti qua io, gente dalla Corsica venendo qua in Sardegna, dovete giù a Predanieta, ma si caricavano un saccaccio di roba, E noi abbassiamo il cofano, abbassiamo i piedi dietro e carichiamo i tucci, ci portiamo, facciamo la spesa anche o meno di spesa di due cose, qui speriamo cosa funziona noi per due mesi, tipo i pomodori, i pelati, poi ci portiamo il scatole tipo tonno, il formaggio, un sacco di cose che possiamo, diciamo, conservare. Poi ci portiamo un po' di spianate e le congeliamo, e poi mano a mano, poi quando lo finiamo ci portiamo il pane e qualche cassapina, tipo due tessiti, capito, tutte queste cose qua. E con questo gioco qua che fanno tutti quelli che vengono alla Sardegna, perché invece di dare a loro tipo il 20% di cosa guadagni tu, te lo tieni in tasca, capito? E questo gioco sono tante persone, perché la dove sono belli di nato. La carne è allucinante, tanto che la pancetta tipo a 13 euro, a 12 euro, a 11 euro. E poi molte volte ci portiamo anche la verdura, con tipo una carta di lattughe, finocchi, capito? Se vogliamo avere più soldi in tasca dobbiamo fare così, e lo fanno tutti quanti. Sì, ma io ho visto anche corsicani, proprio loro venendo qua a comprare. Adesso non so con la storia del Covid ci si stanno muovendo, però io l'ho vista questa storia qua. Sì, sto facendo. Poi, vicino a Iaccio, no, vicino a Porto Vecchio, ci sono dei centri commerciali tipo Eurospin, dove un po' la roba costa poco, però tipo sì, su 30 negozi entro uno solo, che un po' ti fai un po' di prodotti, diciamo, più o meno come da noi, ma poco meno. Poi il resto, la roba è cara. proprio carissima, una impressionante. Infatti molti fanno così perché c'è una città da spesa di 2 mesi, tutto lì, si mangi tutto quello che qua in giù rispetto a noi. Ma sai perché non ne fanno molti in coce? Perché è un casino, perché sono bombaroli, so, magari se si sbaglia ti pone a che cosa, mi capito? No, non ho capito, fanno così perché? Un po' come bombaroli, cioè se sbagli lì ti pone subito una bomba, ti pone. Sì, sicuramente sì. I noreggi rispetti qua sono dei pellegrini. Però se ti prendono si fastidia e sanno che ti comporti bene, no? Diventi, sono molto molto ufficiale. Più calento lì, ti sei casaluta, non vado stravaganti, non toccare donne degli altri, e comportati bene, normale, no? È come che venga una persona a casa tua e si comporta male, tu non è che ti hai dato cosa fai, reagisci, no? È normale. Certo che sì. E lì sono molto prepotenti. Si fanno rispettare, ma giustamente, però, giustamente, insomma, fa rispettare. Capito. Però se ti lavori ti dà pure il bello, quando ti metti in quel gruppo tranquillo, non ti tocca nessuno, perché se vai lì a lavorare per quello là e quello là non si deve toccare, capito? Però tutti quelli che senti, il corso, quello, bla bla bla, perché si sono comportati male, capito? E quindi se ti comporti male, perdi la fiducia e poi sei finito, sei rimasto cadendo a casa tua. Però se ti fai apprezzare, non tocca nessuno. Io capisco, non si sono stati di 20 anni. Per quale motivo? Perché ti comportano bene, il fare non lavoro, fatto bene. E i corsi sono tranquilli. Ma se ti comporti male, lì sono omicidiale, non ti avvisano i corsi. Oh, intendi solo un botto, intende, mica ti avvisano. Ora lì è così, anche quelli che vengono da fuori, pensano i saldi sono più bene, i saldi, quelli che sono messi male sono tutti quelli che vengono da fuori, i milanesi, i napoletani, questa gente che vanno a fare i proporzioni, no? Capito? Vanno ai locali, aprono il locale, fanno i massi, e più di uno ne hanno fatto saltare in aria. Io ho visto una discoteca nel 2000 che l'hanno fatta saltare una settimana prima di inaugurazione ed è costata 2 miliardi di lire, nei vecchi lire. Discoteca, ristorante e pizzeria, ci lavoravo a 50 persone per 4 mesi, quindi sono andati da proprietario milanese, guarda che più di questi 50 a 40 devono essere ragazzi corsi, quindi gli ha detto io posso ficcare in piazza. La settimana prima non ho fatto il traccia impugnato, ma con blocco tempo rimasto. Perché devi trovare un accordo, non devi rispondere male. Se tu trovi un accordo cambi. Allora come qua no, come questo andrà, cazzo, non si fa prima che entra, gli hanno fatto fare quello che hanno voluto i cardi. Ma lì non è così, lì sono tutti, sono contratti, di 50, 40 devono lavorare di 40 minuti, e se no non è gravato di noi. Infatti la settimana prima, buh, il prefetto non è rimasto, sembrava una scala, ma sai una scala con uno scappo tarata, sopra i noi del marmo, così. Ma tu che cazzo che no? Ho fatto la ricorda, e il cazzo! mancanti so. Poteva evitarselo, è la verità, poteva evitarselo. E invece no. So così non è di nulla. Però il discorso è giusto, tu vieni qua, hai fatto una bella cosa. Cazzo, fai da fare a noi, i ragazzi, noi tutti forti tutti a Milano, e allora cazzo sono venuti a fare qua, a sfruttare il nostro territorio, e noi a guardare. No? E allora siamo andati, io adesso e lui faceva il cazzo che voleva, una settimana prima di inaugurazione, boom! Dice che blocchetti, non è tanto, non è rimasto un intero, uno meno, uno ti ha detto, se la sta finita, dentro un intero, cazzo ti fa la cera, io, tu pensa quanto triste la momento, cazzo. No, ma comunque non è giusto neanche, perché se ci sono già degli abitanti, ragazzi giovani, lì, almeno una, cioè 50 persone, almeno cazzo, prendine almeno 40 e farli, cioè del posto, farli lavorare, non è che se ti porti la gente da fuori lo fai lavorare da fuori, non mi sembra una cosa giusta, quelli là hanno da campare lì. Allora, e poi questo qua l'ha fatto come un affronto, io faccio quello che mi piace con i miei soldi, e vabbè, fai come ti piace. Ragazzo, ma io quando mi ho parlato a vederlo, cazzo, ma cosa impressionante, sembrava una scarpa. Ma per questo ho fatto anche le vitti, ma diciamo le filmati quando prima di fare la scuola. Cazzo, è una cosa enorme, ci sono anche tutti a discoteca enorme, ci avevano 50 persone piene. Ha detto, io faccio quello che vuoi, lo fa, fai quello che vuoi, va, qua, apri. Ah, in quel caso lì hanno fatto bene a farglielo, hanno fatto bene a farglielo, che se cos'è, ti ne vieni in occhi a fare un dogo, cioè, a me non mi dai da mangiare, non esiste, hanno fatto non bene, non di più. Allora, allora, non come l'ho fatto in Sardegna, cazzo, che ci hanno fatto preso, ci hanno fatto prendere per il culo a questi bastardi. Che cazzo vai in Cotronalda, cazzo, sono tutti di fuori. Appena ti vado in manca vicina, cazzo, sei là fuori, cazzo, sono a pulire la merda, a lavare i piatti, boh. E quello non è giusto neanche, non va bene. Ma tu il Gmod stai usando? Sì, adesso sì. Già si sente già. Capito. Funziona così. Però c'è tantissime persone, io ero gente, ho trovato gente, ero 30 anni non mi vedevo, gente che ha giocato a pallone con me. Ero anni non mi vedevo, ho giocato ora. E sono 20 anni lì, con famiglia, di uso, sono felici. Io ti ripeto, dove siamo noi? Cazzo, mezz'ora siamo a Bonifacio. Mezz'ora mia, a casa mia, mezz'ora siamo a Bonifacio. Se il mare è buono ci mette 45 minuti da appena si stacca la banchina, appena sta agganciando a Santa Teresa, capito? Se invece il mare è agitato ci mette un'orettina, ma se il mare è calmo ci mette 45 minuti, è una incredibile. Poi un'ora e quarto, un quarto e 20 sei a casa, tranquillo. E poi se è più difficoltoso andare a Cagliari che andare da lì a venire qua. Scappa. E ma lì già è bello già, già. Oh, già. Ma che l'avevo fatto? Beato te, dai, cioè, beato che l'hai trovato il lavoro, perché non è facile trovare il lavoro adesso. Ma proprio ti dico che è un casino, eh. Tanto che arriva la pensione più in là, dopo già bisogna in culo tutti. E ancora sei giovane, sei, non so quanti anni vai, ma sei giovane ancora. Già sono giovane, io sono sempre giovane. E sai cosa anche io lì in Corsica, la prima volta che sono andato in Corsica, nel 1988, con un moto raduno, con degli amici miei, avevano la moto tutta la strada, il 125. Ma, e poi ci andavo, cioè, in realtà ci andavo 4, 5 volte, 6 volte. Invece gli ultimi anni ci andavo ogni fine settimana, in estate, perché gli amici sono anni che stanno lì, quindi avevo già l'appoggio, capito, sono andato all'avventura, io sapevo, perché mi avevo là, avevo già là, vabbè, non avevo problema, adesso mi domani parlo con capo della Corsica e dice già qua, perché ho ben attivo che si è abituato alle partite, a lavorare, del lavoro, e fino a lì, infatti gli sì. Io tu pensa, quando ho fatto una settimana la abitudine, ero andato da questo qua, da questo napoletano, che è quello responsabile del nostro gruppettino, tra l'altro che tu sei un amico, come gli voglio così, sono stati la BBC, allora, secondo giorno, sapete come lo sei questo ragazzo, io ti dava gli avvinomi, capito, io ti dico di essere sempre con me. Scappa, meglio, ma guarda, meglio così, meglio. E poi già lo so il tuo paradiso dov'è, arriva il tempo bello, cioè quando sei libero, il tuo paradiso è lì quando stai a Platamona, tranquillo, e va alla grande. Ma poi il mare lì è uguale, come se sei in Sardegna, certo, la costa è meno... È più selvaggia rispetto alla Sardegna, è meno sviluppata, le montagne sono micidiali, poi è un'isola montuosa, tu pensa dove sono io, fai 10 km e mezzo e arrivi a 1300 metri, tutti i paesini, cazzo, uno spettacolo, infatti adesso lì dove un amico c'è una foto, una casa di sua proprietà, no? e lì ho messo un'antenna, però c'è solo un ricevitore, ma io ascolto tutti, tu mi sei in alto, io sono sentito, vedo la Sardegna lassù, e un paio di lì ho sentito anche gente di voi, avevo sentito a Claudio, bella benissimo, e in alto, io vedo tutta la corsa, 1350 metri. Vero, senti anche noi, senti. Allora, se siamo ricevuti la coda della Sardegna, capito? Però diciamo, noi però siamo a bassa quota, siamo alle del mare dove abitiamo, no? È una cittadina che viene abitata a due chilometri dal mare, ed è la parte verso l'Italia, capito? Tu guarda una cartina della costa, la costa che va verso l'Italia, capito? Non verso la Spagna, o verso di noi. Però io quando andiamo lì in su, che facciamo la buia anche nei paesi, facciamo un po' di tutto, perché l'ultimo lavoro abbiamo fatto, in questi paesi abbiamo fatto dei lavori dentro il cimitero, capito, pulire, poi piazzare del stomo, noi facciamo di tutto e di più, capito, adesso l'abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto la vendemmia, siamo stati mezzo a mezzo vendemmiando, non finivano mai che gli equilibri. Cavolo, sono che c'è bella, la luna bella piena, c'è, cioè, adesso schiarito, ma sono qua da lucernaio, è bella piena, cioè, non ti è. Sì, lo dico anche io, capito, anche tu. Poi molte volte, perché sono già un annetto l'ufficio, molte volte mi sposta anche più verso Bonifacio, capito, però adesso sono lì, sono bene lì. E da casa ci metto 30-35 minuti per arrivare a Bonifacio, noi siamo a sud. Invece due anni fa sono stato 20 giorni, sono portato sulla Bastia, la punta della Corsica. E lo stesso, una bella cittadina di 20.000 abitanti, più o meno. Di lusso, bello. Adesso siamo qua da sud, sei più vicino alla Sardegna, che nel Mar Caro, qua perché da su sono 130 km arrivare all'imbarco. Dove ti fa almeno un'ora e mezza di massimo, però è capitato poco niente, però la maggior parte siamo responsabili qua, capito? Perché questo ragazzo che ho visto, ma detto no, adesso rimaniamo qua, poi ci mandiamo gli altri, sono io il comando, adesso noi ci mandiamo gli altri, c'erano tre rumeni, quelli si erano andati in casino, su in alto, andate a fanculo. Chissà se arrivo pure io lì in quelle zone, qua, pure d'ora ci arrivo, ma chissà se arrivo lì. Allora, in Corsica tu potresti arrivare la parte che vediamo. Capito? Io da campagna mia in Corsica arrivavo con un antennino di macchina su in cross, io sono in cross, non c'è ostacoli, non c'è niente. Cioè così, se non ci sono fazioni, se qualcuno nel baracchino nel fuoristrada non fa escursioni. Infatti una volta io sono stato con questo fuoristrada di questo nostro amico, sono stati su, avevamo un po' di giornate libere, e tra l'altro un lavoro che dovevo fare il giorno dopo. Infatti c'era il baracchino, ma sono stato in montagna, tutto vedo tutto a 360 gradi. Ascoltavo cazzo tutto, facevo di faccia diverse, cazzo come si chiamano, con i polacchi, con gli inglesi, della macchina, quando tu non c'hai ostacoli, è come quando tu sei a Usilo in macchina, se sei a Usilo in macchina c'è proprio l'azione, fa mezzo modo. Io a Usilo arrivo, no, più 10 arrivo, da Nido dell'Aquila, lì, mi hanno quasi fermato Gianni, 9 più 10 arrivo, qui non è poco, mi dava abito io. Sì, perché c'è poi in corso, cioè non c'è fazione, dice cazzo si può essere, non c'è uno. Io sono convinto che lì, dove sono io, alla grande, con un'antenna sul tetto, con un apparecchietto tipo questo, fai la Sardegna alla grande, perché io la vedo, io quando sono lì vedo tutta la... quindi sono vista ustica, non c'è un sacco, non c'è un cazzo, quindi la via alla grande. Tu pensa che c'era un aiaccio, che c'è il radioamatore anche, e quando nel 27 va benissimo qua sacco, cazzo, a me in campagna mi va con lo scala. Nora Mara. E qui vicino c'è il mare fa da riflettente. Cazzo, sei lì, quando sei in costa, lì siamo in costa, non c'è lo sacco, non c'è montagna, c'è un cazzo, è normale che arriva. E va benissimo, e non ricordo come si chiamava. E poi era diventato radioamatore. Non lo so. Non mi è mai capitato tutti anche in corsa, se tu guardi, raramente vedi un'antenna CB, ma per me, cioè, ce l'hanno molto nelle macchine, tipo fuori strada, no? Le usano per fare escursioni, ce l'hanno, per comunicare con me, con l'altro, capito? Ma l'antenna è fissa, io per me, io non l'ho visto, ma cura, cura me, capito? Non fai nulla. Tu pensa, avevo un ricevitorino, andate a fare dei lavori su in montagna, facendo che strutturare una casa di garantite. Mi hanno portato sopra il ponteggio con un ricevitore, ascoltavo tutti, ascoltavo gli danesi, ascoltavo di tutto di più, con un portato, ci vengono portati da quarta calante. Cazzo. È una zona anche molto molto molto aperta. Se dai montagna sì. Ti ripeto, io da su vedo tutto, perché c'è Santa Grade, ma tu credi, vedevo la Corsa, vedevo la Sardegna, vedevo, poi da dove stavamo noi vedete anche l'Isola d'Elba, quando appunto la giornata è chiara, e non c'è ostacolo, non c'è niente, con un 7.600 metri, normale, con la preparazione ascoltavo tutta l'Italia, ascoltavo, sono importato le 40 canali, da sul punteggio. Io si può l'amanto, ma in chi parli, cioè stai ora e parla facendo questo o parlando? Sì, ma lui è di lusso, io lo stesso, però se la vogliamo tu, quando tu magari non stai lavorando, non è che cazzo che si crea tutta la gira attaccata alla radio, ma sì, tu magari la sera fai la tappa con gli amici, e tu magari stai a casa, mangi, prepari, e poi non è che si muoia alla radio, capito? Poi, se non c'è propagazione non siete nessuno, tutto zero, capito? Se c'è propagazione c'è qualche collega, qualche collegamento e faccio quel tempo. Ma se sei collegato non c'è propagazione e non ci sono cibi in linea, allora che cazzo va bene, concorrebbe. È vero, ya, cioè c'è ragione. Cosa abbiamo fatto? Saluto, dai, mi ha fatto molto piacere Fabri, cavolo, minimo era un anno che non ti sentivo, dai, buonanotte. Ehi, ya, sono un annetto che non entravo, ma lei quando era a casa li ascoltavo, ma mi facevo anche 10 quando ero in campagna, così, capito, e dimmi una cosa, e voi che state a prendere una cosa di quella azzurra? Sì, di meno, più liquida che azzurra. Ok, mi sembra che voi prendevate solo quelle azzurre, se non mi ricordo male. Un periodo sì, cioè avevamo un abbinamento con Burtanga, dopo non più, capito, perché ci siamo rotti di balle, perché ogni volta era un casino con i vuoti, capito? Ehi, sulle tattoria, poi cazzo, se non c'ho vuoti, cazzo, devo lavorare in inverno, non mi dai vuoti, cosa cazzo, se non lavoro in inverno non mi cazzo da lavare. E tutte le porta? Ehi, Angelo, le porta. Kirchi. Ah, ok. Sì, si vede, ma sto più o meno come prima. L'unica cosa che ho visto quando stavo andando a imbarcare, cazzo, che questa macchina, la macchina gialla di là, di quelli F, ho detto, cazzo, vedete che i paesini, il sotto, il segno, eccetera, la facciamo fare a quello. Perché prima faceva quello con la macchina bianca, quel coglione. Capito, adesso fa Ferrari, vedete tutti le cacculo. Sì. No. Sai cosa? Allora, ti spiego. Ma te lo tengo un pochettino. Ti spiego. Allora, il problema più grosso è che mi devi dare i vuoti a lavorare, primo. E poi, il secondo problema è che sai, a Riuscia come ti si comportava, cioè un periodo e poi ha rotto le palle ed è successo quello che è successo. Ma adesso la situazione si è anche un pochettino stabilizzata, dai. Va, troppi casini, troppi casini. Abbiamo deciso di andare con Liquigas, che è un altro pianeta. Ti danno le bombole, ti danno tante cose. Cosa fai? Con chi stai? Meglio con Liquigas. Sicuramente sì. io non avrei più venduto al giorno solo per quel testa di cazzo di Aliuscia. Io anche per quello sono andato a fare questi quattro, perché è una persona liscia, non potevi fare un cazzo. E quindi anche per quello, soprattutto per quello. E dire, ma che cazzo va di là, sei Geranelli, poi quando tu non c'è tranquillità in un mondo del lavoro, lavori male, lavori con l'ansia, lavori cazzo, con il malumore, non c'è cosa peggiore, uno deve lavorare tranquillo, capito? Se no che cazzo, io faccio per questo, ti ripeto, tu quanto mi amete, no? Ho trovato la felicità, capito? Ho trovato la felicità, perché non c'è la felicità, perché quel coglione da lì, sono arrogante, io sono incrociato di voi. Non avevi più venduto, perché la liquida, come tutto, tutta la confianza, c'hai il deposito a Sassari, le mobiliari sulle tibiali, l'ho preso, sono per fare il cane. Sì, ma non è che ne siamo obbligati assai, no? Non è che stiamo prendendo, io sai cos'è, un po' per comodità le dobbiamo prendere per forza, perché non è che loro sì, ci hanno aiutato tanto, però non è che si pone aiutato più di tanto, perché i vuoti sono sempre noi, vendiamo ad alti livelli, cioè noi abbiamo molti clienti, siamo a livello di cioè, un rivenditore un po' più aperto, quindi non è che ci possiamo permettere, soprattutto noi via Milano abbiamo molta vendita da terra, non è che ci possiamo permettere di prendere. Te li danno, però non è che ti danno un po' di bombole alte anche per continuare, però un po' di bombole fiamma ci vogliono, perché sennò è un casino. Allora, purtroppo è così, e poi se bastardi, io mi ricordo che mi ha fatto a gogo, e invece gatti la differenza a fare, capito, in vero gatti non c'è mai bombo, non c'è mai bombo, come cazzo da lavorare, oppure andare a consegnare, devi caricare molto contro pieno, molte volte quello aveva venduto, non aveva recuperato i gusti, e ti portava i cazzi magari dietro 30, 40, 50 bombo, gatti non se le pagava, ma è cazzo di dice, capito, no, rispetto, non ce l'ha più tanto di fare, non c'è la tranquillità, e quando tu lavori senza la tranquillità, la mente non è tranquilla, sei male, capito, tutto lì. Vabbè dai, mi ha fatto piacere ascoltarti, stammi bene, sentiamo le cose, intanto io adesso sono via 10 da qua, adesso vediamo quando siamo pronti a qualcosa, il traletto, e poi devono venire dopo fine febbraio così. Capito? Vabbè dai, ci sentiamo ancora, stammi bene, buonanotte, ci sentiamo le cose, ok Fabri, dai, mi ha fatto piacere anche a me sentirti, cappa, adesso ti sto dicendo che un po' la situazione si è calmata, ma un bel di casini, un bel, ok dai, buonanotte, ciao, ecco, e quindi quel Dorito non sta più facendo la parte di che faceva prima, porto al storo, il discorso, semole. Se mi c'era che il futuro faceva lui, l'ha provata lui. A chi? Ad Angelo? No, all'altro con la macchina bianca. E a Silvio, sta dicendo. No, a quel testa di cazzo. No, adesso c'è un pochettino tridimensionata la cosa. Diciamo che la colpa di Angelo è che si doveva far vorrer bene alla gente, no? Sempre potente. Penso che un po' si sia stabilita la cosa. Lo so, anche io ho sempre detto, questa mania, sai cos'è, quando si ha a che fare con le persone, è come se tu apri un bar, apri un ristorante, se tu tratti male la clientela e non sei gentile, il cliente poi ti farà e ci viene più, è un normale, il commercio. Anche quando capita che magari un cliente rompe il coglione come se erano stati, lui sei bravo di sapersi, cioè, l'arroganza non porta mai a niente. Perché tu la fai il cliente, per il picca di Zavaro te di dubbio, vaffanculo. Cappa, soprattutto con Angelo, una volta era vendere per potente in deposito, sai come mio padre che non è tanto paraquale, sono arrivato alle mani, ma proprio a livelli di gozo. E da lì poi è venuto Silvio a portarci le bombe, c'è una decina. sono messe le cose in pace e via. Bombole difettose. E la stiamo a mai capita, ma tanto cazzo che ti manco di immagine, io facevo 5, 6, 7, o più con quella roba che perdevo. Ma perdevo per colpa loro, perché molti perdevano da sotto, il volantino, oppure al massimo, perché non fatte male, le facevano male. E le portate indietro, capito? Per carità. E infatti molti non le volevano. E poi cazzo le portavano indietro e non te le pagavo, ma l'altro te ne affanculo va. Sì, quelle AC erano difettose, cioè se qualche vecchietta, qualche d'uno apriva tutto il rubinetto per dire, cazzo perdeva, usciva gas ed erano i pericolosi. E allora, se prendeva la sopra, devo dire, e la tua scintilla che ti salta la palazzina, salta l'appartamento, non mi vede, e ci fanno i gatti i mobili in strada. Però allora ci avevamo pensato per quello, per l'altro. Un po' garetto di c'è un di dissapori giramento di palle se siamo afferrate c'è capito c'è un poco di prepotenza pure ti sono su sinchi già lo sai che senso hai capito così lo faccio come se lo va bene e quindi non ti ha preso a schiaffi non ho capito ho detto non ti ha preso a schiaffi no io non mi viene a schiaffi non ha più niente non ha l'età e fa pigliaccia a me vabbè lui è convinto di picchiare è convinto di picchiare per tutti a parte con questo suo atteggiamento però di zia nonno se puoi trovare il tuo che ti mette a testa in giù o no tu ma sei più calmo Angelo se l'ha fatto il babbo ce l'ha attaccato forte ma il babbo l'abbia con tutto questo campionato l'abbia fatto qua due volte due giro pure certo si crede Angelo oggi poi alla fine più buonaccione già si è risolto va meglio così ma tutto dipende anche da chi gestisce perché lì c'era troppo malumore anche in ufficio tra i trasportatori dovuto tutto da quel testa di cazzo che gestisce capito? Che ha messo uno contro l'altro capito? Siccome a me quell'altro coglione sì, che mi ha fatto due volte andato e lui faceva un pezzo di uso, no? E un pezzo facevo noi. Poi a volte è andato a consegnare dei clienti inutili, d'accordo con quel coglione, no? Quindi lui sono andato a consegnare, cazzo, mi abbia chiesto l'ordine, mi ha chiesto la metà, chiaramente, no? E lui prese e noi finiamo la macchina a vuoto. Ma tutti i voti, io fare, ma io cazzo questo io ho avuto, chi so se io, allora tirato giù, tu vai. E quello che ho fatto, che cazzo me ne frega, io sono stato qua, ora sono stato 6 mesi, e lavoravo sempre per una persona, cioè non sono stato fermo. E poi ho trovato questo mio amico, che lavora qui, cosa? Ah, cazzo, io faccio vedere, io gli attraverso, ha creato una fiamma, ecco, lui. Guarda che stavo con un mio amico, una persona che merita, lavora, e tu dici che li guadagna la grande. E dici, come questo mio amico è 20 anni che lavora per loro? Sono salito, tutto a posto, i documenti di lusso. Sono stato, ma c'è da una via in su, ma tu trovi sì, tu sei abituato alla fatica. Ma tu non sei così subito, se cane mandroni, se fai finta a lavorare, e non c'è un problema. Ma io vieni in su, me darebbe, Vabbè, tu là, ti lascio stare, là. Vai, buonanotte, ci sentiamo, casomai domani sera. State sempre su 10, già entro anche domani sera ti ritrovo, là. Ciao, tu, buonanotte. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti da. E comunque già molti hanno cambiato anche azienda, tipo qualcuno. Va bene dai, buonanotte dai. Ciao ciao. Ehi, ciao, buonanotte, ciao ciao.